Il Genius Loci del Ticino. Se devo raccontare del cibo della mia memoria e della mia formazione, non posso fare a meno di tirare in ballo il Genius Loci del Ticino, il genio tutelare del luogo in cui sono nato e cresciuto, natura e cultura del luogo in cui sono tornato a vivere a un certo punto. L'Abbiatense, a sud-ovest di Milano. Terra grassa, terra d'acqua e contadina. Oggi anche terra di periferia. Non posso fare a meno di tirare in ballo anche la mia famiglia di Acqua Dolce, se voglio parlare di cibo e della mia memoria. Mio padre è nato e cresciuto sulla riva, ad Abbiategrasso, sulla sponda destra del Naviglio Grande. Sua mamma, mia nonna, è arrivata ad Abbiategrasso dal lago di Garda, quando aveva 6 anni, per fare la serva al dottore del paese. Mia mamma è nata e cresciuta a Cassinetta di Lugagnano, qualche chilometro prima di Abbiategrasso, paesino attraversato anch'esso dal Naviglio Grande. I miei, entrambi di famiglia contadina, si sono conosciuti sul treno che li portava a Milano a fare gli operai. Erano gli anni di quando i contadini diventavano operai, l'inizio della fine di un mondo che sarebbe scomparso da lì a poco e non sarebbe più tornato. Il Ticino ci avrebbe messo ancora un po' a non essere più quello di una volta. Le sue acque sarebbero rimaste azzurre e pescose ancora per un po'. L'Abbiatense, come dicevo, è terra d'acqua, di bosco e campagna. E per proprietà transitiva lo è stata anche la mia famiglia. Mio padre, cacciatore, pescatore e raccoglitore del Ticino, fino a 80 anni ha fornito materie prime per la nostra cucina di casa. Materie prime trasformate in cibo dalla mia mamma. Abbiamo sempre vissuto in appartamento, ma i frigoriferi, al plurale perché erano più di uno, e i balconi erano sempre pieni di pesci e selvaggina di piume e di pelo. Anche nella vasca da bagno ci finivano le anguille e le tinche a spurgare. E ogni tanto, alla notte, ci si svegliava perché qualcuno riusciva a saltare fuori. Prendila un'anguilla nel bagno. Il fiume per noi era sostentamento. Si usciva in barcè, la barca, e si pescava con la canna, con il quadrato, la bilancia, con il tremaccio, la rete, la sfrosna, la fiocina e le mani. Era generoso il Ticino. Donava vita, ma se la prendeva anche. Tra corrente, buche, mulinelli e piene. La regina del Ticino era la trota marmorata. Oggi è rarissimo incontrarla. Ne ricordo una di 10 kg. Di solito mia mamma, dopo che mio padre la viscerava sul tavolo della cucina, la faceva lessa a tocchi in acqua con l'alloro, il sedano e la carota. Di contorno, patate lesse col prezzemolo e maionese fatte con le uova del pollaio. Quelle più piccole le friggeva infarinate con il burro e la salvia. Il principe del Ticino è il Temolo, un mito eterno che quando ero bambino io non c'era già più e non è più tornato. Il Temolo vuole acque pulite, acque pregiate. Quando i vecchi lo nominano, sorridono rassegnati e lo sguardo si illumina, gli viene l'acquolina in bocca, deglutiscono e dicono sempre: era un pesce che non sapeva di pesce, profumava, non puzzava, profumava di timo, cetriolo e anguria, non aveva le resche, le lische. A parte quella grossa, quella centrale, la carne soda e magra, che buono. Ricordo che mio padre insisteva per farmi mangiare il luccio in umido, che a me non piaceva, il pesce che insieme allo storione si contende la corona di re del Ticino. Preferivo l'anguilla sulla griglia o in carpione. Cosa darei per un'anguilla tagliata a tocchi e messa sulla brace col grasso che cola sul fuoco, quello sfrigolare e quel fumo profumato. L'anguilla, anche lei, ormai fa fatica ad arrivare da noi, col suo pazzesco e misterioso viaggio a superare chiuse e sbarramenti. Comunque, la frittura di pesciolini era la mia pietanza di fiume preferita. Una festa. Io ero l'addetto alla raccolta di questo argento vivo. Mio padre faceva un lancio preciso con la bilancia e una nuvola di arborelle e vaironi arrivava sulla riva. Tra i sassi. Se nella frittura c'erano bottine, un pesce che assomiglia a un girino, useline, i cobiti, e lamprede, simile a delle minuscole anguille, frittura della memoria. Questa per me è roba veramente gourmet, ormai introvabile in qualsiasi pescheria o ristorante, o te le peschi da solo, con le mani, in qualche fontanile di acqua pulita, o non potrai assaporarle. Sono riuscito a mangiare l'ultimo piatto di fritto misto con bottine e lamprede un paio di anni fa, a casa dei miei, Mio padre ne aveva preso un paio di manciate in un fosso che lambiva il suo pollaio. Abbiamo aperto una bottiglia di Lambrusco di Danny Bean. Mi sono emozionato. La selvaggina è un altro capitolo. Il germano reale è sempre stata la cacciagione che preferivo, arrosto dopo aver passato una notte immerso nel latte. La lepre e il cinghiale in salmì da piccolo non mi piacevano proprio, ma ricordo l'entusiasmo di mio padre quando tornava con una lepre e i racconti dettagliati della cattura della preda mentre la si mangiava contornata da qualche pallino di piombo che si sputava nel piatto. La marinatura del salmì era importante, controllata e preparata con cura. Vino rosso, pepe, lauro, cipolla, carota, sedano, chioda di garofano, aglio. Le ultime qualche anno fa, con la barbera la sopa di Claudio della Viranda, il gaggiarone di Annibale e il barolo di Nadia Curto. Mi hanno fatto apprezzare quello che non apprezzavo da bambino. L'epoca delle lepri ormai è quasi finita. Ci sono tante mini lepri, ma questa è un'altra storia. Il fagiano è un'altra selvaggina finita da queste parti. A parte quei pochi del Ticino, gli altri si trovano solo durante la stagione di caccia e sono polli, tristemente mollati, lasciati andare qualche giorno prima dell'apertura della caccia. Sono il simbolo di una caccia triste e insensata. Che belli che erano i fagiani che portava a casa mio padre. I maschi avevano delle piume bellissime e code prestigiose. Mio padre ci teneva a non rovinare il piumaggio e li lisciava per bene quando li doveva regalare ad amici e parenti o barattare con parmigiano reggiano al PEC di Milano. Il tempio della gastronomia milanese li metteva in esposizione e in vendita. Il fagiano mia madre lo cucinava spesso e volentieri arrosto avvolto in fette di pancetta. Il petto lo faceva impanato. Sul tavolo della mia cucina ho visto un sacco di altra selvaggina da piuma. La regina del bosco è la beccaccia, la più difficile e rara da cacciare, perché ce n'erano già i tempi pochi e perché quando vola lo fa zizzagando. Mia madre la faceva arrosto. E ancora le pernici e i colini, all'uva bianca, le gallinelle d'acqua, i piccioni col risotto. Un ultimo capitolo a parte è quello delle piante e dei funghi. Per le piante ci metto l'urtis, i germogli di luppolo selvatico. In primavera inoltrata, a caccia chiusa, dal bosco e dalle campagne mio padre portava a casa questi mazzetti per una bella frittata, precedentemente passati in padella col burro, o in abbondanza per un bel risottino. Un'abitudine che non ho perso. Per i funghi, la caccia al tesoro, il porcino e il gabirò, il chiodino. Ogni anziano ha il suo posto e le sue piante per i porcini, segreti da custodire. Il rammarico che ho oggi è che mio padre non mi ha lasciato in eredità le sue piante e i suoi posti. Il nero e il bianco, come per i tartufi, solo che qua il nero è più pregiato del bianco. Crudi, freschi e da far seccare. E risotti importanti nei giorni di festa, col sugo di pomodoro alla domenica, alla festa del paese, la terza di ottobre e per Natale. Chiodini in abbondanza, gabirò a cassette, sott'olio, quelli piccoli e sani, da congelare tutti gli altri dopo averli sbollentati. Almeno una volta all'anno, ancora oggi, bisogna mangiarli con la polenta, il sugo di pomodoro, la salsiccia, la coppa, l'aglio, olio e prezzemolo. La ricetta che voglio lasciarvi è la più scorretta e immagino anche la più disgustosa per molti, ma mi sembra che sia rappresentativa di un mondo che non c'è più, per fortuna dirà qualcuno. Pulenta e usei. Mio padre, nelle domeniche d'inverno con la nebbia, il freddo ghiacciato e con la neve, si metteva seduto su una sedia affacciata alla finestra della camera da letto di mia zia. La finestra dava sul pollaio. Di fianco alla sedia c'era il suo Flaubert calibro 9. Sparava gli uccellini, tra le lamentele di mia zia e di mia madre, che però lasciavano fare, perché poi avrebbero gradito anche loro. Passeri, pettirossi e merli. Il mio compito era scendere nel pollaio dopo lo sparo, raccogliere l'uccellino e metterlo da parte. Nella memoria ho il ricordo del sangue sulla neve. L'uccellino, spennato, lavato e pulito, va infilato nello stecco dove vanno infilati anche della salvia, della pancetta e del lombo. Si fanno rosolare a fuoco vivo con burro, olio e pepe. Si sfumano con vino bianco, si portano a cottura per circa un'ora bagnando col brodo. Una volta pronti, si mette la polenta nel piatto, Scegliete una farina di mais di qualità macinata grossa e sopra si versano 3-4 cucchiai della puccia degli uccellini e lo stecco. Io non ce l'ho mai fatta, ma i miei mangiavano tutto con gran piacere, ciucciavano gli ossicini e sgranocchiavano di gusto le testoline. Non so se questo tempo sia stato migliore o peggiore, ma sicuramente è stato più saporito.